Oggi abbiamo lanciato la petizione online per una raccolta firme singola, e la settimana scorsa invece abbiamo pubblicato e mandato online il nostro sito relativo appunto al ristudiamo il calendario Emilia Romagna. Questa è una campagna regionale che chiede alla regione, quanto di competenza la regione, di costruire un calendario scolastico che risponda alle esigenze delle studentesse e degli studenti di ogni ordine e grado della scuola statale del nostro territorio. Chiediamo di eliminare una delibera in vigore dal 2012 che vincola l'apertura e la chiusura del calendario, l'apertura al 15 settembre e la chiusura al 6 giugno. Questo cosa impone? Impone il fatto che non ci sia la possibilità poi dei singoli istituti comprensivi di inserire grosse pause a metà del calendario scolastico. Vuol dire avere tempi scuola molto stretti, molto condensati, che affaticano molto gli studenti che hanno disturbi specifici dell'apprendimento, per esempio, o studenti che hanno delle altri tipi di fragilità sociali, che si trovano a rincorrere un tempo scuola faticoso in cui non riescono a recuperare. E quindi riguarda non solo i bambini e le bambine della scuola primaria, che arrivano molto stanchi a maggio, ma riguarda anche tutti gli studenti delle scuole medie, delle scuole superiori, e specialmente gli studenti con fragilità, ma riguarda anche gli insegnanti, che fanno molta fatica. Anche per loro il tempo scuola è molto stretto. Questa campagna nasce sulla spinta di un gruppo di insegnanti, a cui poi dopo hanno aderito altri cittadini e altre realtà collettive del territorio, proprio per iniziare a pensare insieme un tempo scuola che sia a vantaggio di tutti e che, come dire, abbia come fondamento e bussola di base la didattica, cioè cosa serve agli studenti e alle studentesse per imparare meglio, per stare bene a scuola. E da lì quello che serve a loro, magicamente questo succede sempre, quando si prende il punto di vista dei bambini e delle bambine e dei ragazzi e delle ragazze, dopo si struttura tutto bene. Cioè, noi diciamo sempre che con Cinica, se pensi a una città a misura di bambini, è una città per tutti. E allo stesso tempo la scuola, se la pensi a misura di bambino e di bambina, risponde anche alle esigenze degli insegnanti e anche alle esigenze delle famiglie. Quindi invitiamo tutti a sottoscrivere la petizione su change.org, in cui appunto chiediamo di togliere questa delibera, di aggiungere qualche giorno all'inizio, qualche giorno alla fine, di inserire una piccola pausa a metà del primo quadrimestre come tutte le altre regioni del nord Italia, di costruire delle piccole pause in mezzo, specialmente nei grossi mesi che sono gennaio, febbraio, marzo e aprile, perché quest'anno la Pasqua ad esempio cade a fine aprile. Ovviamente sono riforme che chiediamo a partire dal prossimo anno scolastico, non da quello che inizierà lunedì, e di costruire un piccolo tavolo fatto dagli attori della scuola, che possa essere consultato in previsione del calendario della delibera che ogni anno la giunta regionale fa sul calendario scolastico. Ci sono anche le richieste riguardo invece alle strutture scolastiche, ad esempio che siano attrezzate o meno a questo prolungamento del calendario, per esempio nei mesi estivi. Allora, al momento quello che noi chiediamo appunto sono queste cose. Mm-hmm. Esiste una campagna nazionale che va maggiormente nello specifico rispetto al tempo scuola. Comunque noi lo vediamo già che, al di là dell'emergenza climatica, la scuola ha bisogno di un grosso investimento anche per quanto riguarda le infrastrutture, e questo è chiaro. Iniziare a pensare a una didattica all'aperto: noi abbiamo la città di Bologna che fa convegni sull'outdoor education, ma l'outdoor la puoi fare non solo sulla fascia 0-6, ma puoi pensarla anche dopo, portando i ragazzi e le bambine fuori, che già è meglio che stare chiusi all'interno di alcune aule su cui batte il sole costantemente. Quindi sì, questo è il passo successivo. Iniziamo a prenderci carico della scuola come bisogno collettivo, e io sono convinta che se da lì si può iniziare a ripensare alla scuola. Quello che chiediamo intanto ora è poco, ma è un piccolo passo.